libri occidentali da un lato, libri orientali dall'altro, ed è prevista pure la terza sezione per gli apolidi. Sarete d'accordo che scrivere un libro apolide è una delle cose più inusuali che possono capitare a un autore? Ma tant'è. Non sono riuscito a scoprire come li ordinasse Ortega, ma era perfettamente in grado di rintracciare tra i suoi scaffali qualsiasi libro. Ne possedeva qualcosa come 15.000, persino da lontano. Si racconta che più di una volta, dall'estero, gli abbiano ricopiato o dettato al telefono passi di libri di cui lui, andando a memoria, aveva indicato mensola, ripiano e punto preciso in cui si trovavano. Un metodo molto più preciso era quello utilizzato fino a poco tempo fa nelle biblioteche pubbliche, in cui i libri, per risparmiare spazio, si ordinavano per dimensioni, i piccoli con i piccoli, i medi con i medi e i grandi con i grandi, tanto che molte schede riportano ancora le misure. In un negozio di libri usati a Madrid sono disposti per sale. In una i libri di storia e filosofia, in un'altra quelli di letteratura, lingua e religione, curiosa convivenza, tra l'altro, tra i corsi di inglese e i catechismi. In un'altra ancora i libri d'arte e di viaggio, e nell'ultima tutto il resto. Libri in offerta e libri su un po' di tutto, dalla colorazione dei tessuti alla meccanica delle automobili, alla Seconda Guerra Mondiale e via discorrendo. Tutte le sale sono comunicanti in quello che risulta un bizzarro labirinto. Un posto divertente in cui si può cambiare ambito del sapere semplicemente oltrepassando una soglia. In ogni modo, ordinare i libri è sempre un'impresa. Diciamo che bisognerebbe evitare di farlo, a meno che non si disponga di tanto tempo libero o non si venga pagati apposta. Come fece Caterina di Russia quando comprò la biblioteca di Diderot, a patto che lui stesso gliela mantenesse sempre in perfetto ordine. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Jesus Marciamalo, Toccare i libri, una passeggiata romantica e sensuale tra le pagine. Ponte alle Grazie Editore, 64 pagine, 8 euro.